24 mattino di Alessandro Milan. Ben ritrovati cari ascoltatori, eccoci qua 24 mattino. Voglio subito lanciarvi il sondaggio che è già online su radio24.it, un po' in basso a destra trovate bianco e nero, cliccate lì, oppure sul sole24ore.com. Vi parliamo di quello che è allo studio e si ipotizza in finanziaria, l'ipotesi di introdurre un gratta e vinci per lo scontrino fiscale. Questo perché si va a prendere lo scontrino fiscale, si va in un negozio e si spendono dei soldi e si ottiene uno scontrino con un gratta e vinci per incentivare tutti noi a chiedere lo scontrino fiscale e dunque combattere l'evasione fiscale. Che ne pensate? Può essere un mezzo efficace secondo voi per combattere l'evasione fiscale, questo del gratta e vinci legato allo scontrino? È la domanda di oggi, il nostro sondaggio, state già votando in tanti, il 63% di voi dice per ora sì, che è una misura efficace. Andate a votare, ne parleremo alle 8.30, ora i giornali. In primo piano. Sono il vertice FAO e la politica, i due temi che trovate sulle prime pagine. FAO, promesse e niente fondi, è l'apertura del Corriere della Sera, muoiono 17.000 bimbi al giorno. È il dato invece che mette in prima pagina la Stampa. Battere la fame si deve per Avvenire, mentre altri giornali scelgono la politica, la Repubblica, riforme, Fini frena Berlusconi, Libero, Silvio, chiudi il teatrino, l'invito è andiamo a elezioni anticipate. La piazza e la politica, questo è il titolo dell'Unità invece che rilancia l'iniziativa del 5 dicembre, il No Berlusconi Day. Queste diciamo le scelte politiche, mentre il Sole 24 Ore ha un'apertura economica che poi vedremo, sconti IRPEF ad ampio raggio, dallo scudo i 3,7 miliardi necessari. Ma partirei proprio dalla FAO. Beh, era un fallimento abbastanza annunciato e che si è confermato sostanzialmente. Basta leggere Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore. Contro la fame tanti impegni ma niente soldi. Sfogliando le 6 pagine e mezzo di testo, i 5 principi e i 41 articoli della sua dichiarazione finale, la domanda istintiva è: che bisogno c'era di un altro vertice mondiale della FAO sulla sicurezza alimentare un anno dopo uno simile a questo e 4 mesi dopo un G8 all'Aquila? Dice la dichiarazione finale nel suo primo capitolo: rafforzeremo i nostri sforzi per realizzare entro il 2015 gli obiettivi del millennium. E poi scrive Tramballi: la risoluzione, almeno l'umiltà, di non ricordare un'altra data, quella del 2025, quando il mondo si dovrebbe liberare del tutto dall'ingiustizia della povertà. Insomma, c'è già la delusione nelle parole, nelle interviste. Per esempio Francesca Caferri intervista su Repubblica Gawen Kripke, che è il portavoce di Oxfam International. Oxfam è una delle massime associazioni ONG mondiali. Ci aspettavamo più soldi, le nostre aspettative erano già basse, ma se me lo avessero chiesto a luglio avrei risposto che mi aspettavo più finanziamenti, ma era chiaro che il vertice sarebbe finito così. Anche se sulla questione dei soldi è il tema molto dibattuto, bisogna portare soldi o i soldi non fanno bene, questo ai paesi in via di sviluppo. Ebbene, ormai è sempre più ampio il fronte di chi dice che non sono i soldi quelli che possono salvare i paesi in via di sviluppo, garantire lo sviluppo, o meglio non solo i soldi. Per esempio parla sul Corriere della Sera padre Piero Gheddo, che è stato a capo del PIME, i pontifici missionari, ed è uno dei più esperti, insomma, anche per la sua esperienza in tutto il mondo in missioni estere. Continuare a distribuire denaro a certi governi africani spesso non risolve i problemi della fame, dice padre Gheddo, anzi produce corruzione. L'unico modo per aiutare veramente l'Africa è farla uscire dalla sua condizione affrontando l'emergenza educativa per arrivare a un'agricoltura moderna. Eccolo qui, Piero Gheddo, Pontificio Istituto Missioni Estere, missionario del PIME, che detta questa linea. Assieme ai finanziamenti e alle tecnologie sono indispensabili uomini e donne che consacrino la vita o qualche anno della loro vita per compiere con le popolazioni un cammino di crescita in comune in campo agricolo. Per esempio, dice padre Gheddo, qui a Vercelli produciamo 80 quintali di riso a ettaro. Nell'agricoltura tradizionale dell'Africa subsahariana, 5 quintali di riso a ettaro. Quindi tecnologie, know-how, questa è la strada giusta. Anche per Dambisa Moio, che è intervistata dalla Stampa, da Roberto Giovannini. Chi è Dambisa Moio? Beh, è una economista dello Zambia che un anno fa ha scritto un libro che ha creato molto scalpore, dal titolo Dead Aid, cioè aiuti morti sostanzialmente. Un libro sul fallimento delle politiche degli aiuti internazionali. Il principio base è questo: si è dato $1 trilione in 30 anni e non solo non c'è meno povertà, ma c'è più elite politiche corrotte, uno status di dipendenza da parte dei paesi poveri. Allora ecco che Dambisa Moio dice: non ho mai detto che l'Occidente debba abbandonare l'Africa, ma ci vorrebbero sviluppare commercio, investimenti, non continuare su questa strada fallimentare degli aiuti, ma puntare sulla crescita dei mercati di capitali, sul commercio. Insomma, questa è la strada. Ma insomma, alla FAO si è parlato di altro, e d'altronde li vedrete sui giornali, vedrete, non so, la scelta di Libero, il vertice FAO, la fame resta, e poi chi fa? Mette in prima fila gli aguzzini, i demagoghi e gli affamatori. Chi sono? Mette la foto della moglie di Ahmadinejad in Chador, la foto di Mugabe, il capo indiscusso dello Zimbabwe, Gheddafi, Chavez e Lula. È un po' strano l'accostamento, quantomeno bizzarra l'accostamento del presidente brasiliano con gli altri, che certo con i diritti umani magari hanno qualcosa a che fare. E poi, vabbè, il vertice della FAO verrà ricordato per le stravaganze continue di Gheddafi, il tour di Gheddafi sul Corriere della Sera, cappuccino in centro e notte con le ragazze. Oddio, il titolo Notte con le ragazze è un po' forte, in realtà di cosa si tratta? Beh, Gheddafi ha di nuovo fatto una serata con 500 o giù di lì hostess scelte per indottrinarle un po', per parlare con loro, tutte belle ragazze ovviamente. Ieri scopriamo dal Corriere della Sera che si è bevuto un cappuccino, poi è andato da Berlusconi un piatto di pasta tricolore. Poi ha fatto appunto questa nuova serata con le hostess, si è intrufolata, come dicevamo ieri, una dell'ANSA, che per questo è stata intervistata un po' da tutto il mondo, ha fatto aspettare ovviamente anche le signore oltre 3 ore, secondo Fabrizio Caccia, insomma, che si chiede, ma non si diceva una volta che non si fanno aspettare le signore? Ma Gheddafi è Gheddafi. Insomma, al vertice di Roma della FAO, temo che lo ricorderemo più per questo che per le cose per cui era stato convocato. Veniamo alla politica. La politica, c'è il tema che aleggia, quello delle elezioni sì, elezioni no. Abbiamo detto che Libero lo mette in prima pagina. Libero fa un editoriale con il direttore Maurizio Belpietro. Silvio, chiudi il teatrino. Il presidente del Consiglio deve rompere gli indugi e chiedere le elezioni politiche. Maurizio Belpietro, già alla chiusura, alla bocciatura del lodo Alfano, noi dicemmo: Silvio, facci votare. Il nostro appello poteva sembrare la bizzarria di un quotidiano in cerca di effetti speciali, invece ancora ribadisce per il Cavaliere: tempo di chiudere il teatrino. Scrive Belpietro: resta questa sola speranza che lo ha sempre salvato nei momenti peggiori, quando è circondato e si gioca il posteriore. Berlusconi dà il meglio di sé, come fece col discorso del predellino che sbaragliò amici e nemici. È il predellino famoso a Milano, da cui nacque poi di fatto il Popolo della Libertà. È abbastanza simile, anche se più sfumato, quello che scrive Francesco Verderami in prima pagina del Corriere della Sera: le elezioni e la carta a sorpresa del Premier. Se persino Gianni Letta arriva a dire che non si può escludere nulla, scrive Verderami, allora davvero Berlusconi sta valutando tutte le opzioni, compresa quella del voto anticipato. Sostanzialmente scrive Verderami, per riuscirci, visto che spetta al Quirinale sciogliere le Camere, servirebbe una crisi parlamentare, un incidente, e se Berlusconi decidesse di far precipitare tutto, la forzatura si verificherebbe come sul processo breve, con un emendamento sul tema spinoso, la prescrizione breve, considerata da Fini inaccettabile, e che invece ieri Ferrara ha definito sul Foglio un fondamento del diritto alla difesa. E ieri leggevamo infatti questo editoriale sul Foglio. Dunque, c'è chi dice alle elezioni, lo dice Libero, c'è chi dice, come Verderami, le elezioni potrebbero essere nel novero delle opzioni di Silvio Berlusconi. troppo rischiose le urne adesso, invece questa è retroscena secondo Repubblica. Sempre retroscena, perché Berlusconi di politica da qualche giorno non parla ed è chiuso in un assoluto mutismo. Secondo Repubblica, secondo Francesco Bei, in questo retroscena il cavaliere scettico sulle riforme, anch'io le vorrei condivise, ma con Bersani come si fa? Non è diverso dall'altro che c'era prima, avrebbe detto. E poi sulle elezioni anticipate, per risolvere con un colpo di scure i problemi della maggioranza, secondo Repubblica invece Berlusconi sarebbe un po' sul chi va là, un percorso pieno di rischi. Chi non risparmia il quotidiano attacco al presidente della Camera è il giornale di Vittorio Feltri. Anche oggi ecco il doppio gioco di Fini. Questo è il titolo di apertura con il commento del vice direttore Alessandro Sallusti. Come presidente della Camera fa il super partes e mette i bastoni tra le ruote alla maggioranza. L'asse anti-Berlusconi tra Fini, la sinistra e il Quirinale fa un nuovo passo avanti, scrive Sallusti. Prima è iniziato Italo Bocchino ieri con un'intervista alla Stampa, poi arriva Fini, dice che le leggi e le riforme vanno fatte insieme alle opposizioni, sai che novità. Insomma, dice Sallusti, perché ha detto questa cosa? Perché Fini, che dovrebbe limitarsi a osservare e a giudicare, invece scende ogni giorno nell'arena politica, vuole decidere i candidati governatori del PDL. E poi insomma un'accusa molto grave di Sallusti: non ci sono precedenti in quanto ad ambiguità e invasione di campo nella storia dei presidenti della Camera. Se fosse coerente col suo declamato senso delle istituzioni, dovrebbe avere il coraggio di scegliere: o si dimette e torna a fare politica attiva, o resta sulla terza poltrona del paese a fare l'arbitro e ad applicare le regole. Insomma, anche oggi l'attacco del giornale a Fini. Sull'Unità, la prima pagina, come detto, è sulla piazza. La piazza è quella del 5 dicembre, dove con una mobilitazione partita dal basso, dalla rete, è partito il No B-Day Bista per Berlusconi. Ovviamente ci sarebbero già 270.000 adesioni. C'è il PD che dice non andiamo perché sono manifestazioni da altri. A questo proposito, come al solito, è graffiante Iena sulla pagina 3 della Stampa. Il PD di Bersani parteciperà alla manifestazione del 5 dicembre contro Berlusconi? No, ma anche sì. L'Unità, web, appelli e petizioni, voglia di esserci in piazza. C'è un'intervista anche a Piero Ignazzi: manifestare fortifica l'identità del gruppo, però ci sono i cosiddetti falchi, vengono definiti così, cioè i fedelissimi Silvio Berlusconi, che per il 5 dicembre stanno organizzando un B-Day, cioè un Sì Berlusconi Day, una contromanifestazione, piazza contro piazza, per alimentare la politica. Attenzione, perché ne vociferavamo ieri, ma oggi è confermato anche da vari giornali, il Corriere della Sera e il Foglio. Il Corriere della Sera: mafia dalla Sicilia e da Firenze, nuove insidie sul cavaliere. Sapete che c'è il processo dell'Utri in appello. In primo grado il senatore è stato condannato e c'è questa testimonianza molto attesa di un pentito, Gaspare Spatuzza, quello che ha fatto riaprire le indagini per l'omicidio Borsellino. Gaspare Spatuzza avrebbe tirato in ballo anche Marcello Dell'Utri, la nascita di Forza Italia e quindi anche Silvio Berlusconi. Secondo Giovanni Bianconi, l'ultimo Spatuzza nel 98 ha iniziato a parlare, prima poco, poi un po' di più, e ha tirato in ballo appunto Marcello Dell'Utri, la nascita di Forza Italia. Intorno all'imminente testimonianza dell'ultimo pentito di mafia si addensano le sempre più insistenti voci sui rischi giudiziari palermitani per Silvio Berlusconi. Di questo ne parla anche il Foglio in un editoriale dal titolo "Minacce mafiose, sale alla ribalta la campagna di fango parallela, quella che parte dal caso Dell'Utri". E anche Libero, con Gianluigi Nuzzi, vi dedica tutto un editoriale, un articolo a partire dalla prima pagina. La nuova insidia viene proprio da lì. Così i pentiti stanno mascariando il cavaliere. In primo piano. Sconti IRPEF ad ampio raggio, questa, come ho detto in apertura, è la prima pagina del Sole 24 Ore. A pagina 3 che cosa si trova? Si trovano le vie del rilancio, tutto quello che bisogna sapere, con anche il testo del provvedimento, lo schema del decreto legge che sul credito d'imposta. Marco Mobile e Gianni Trovati spiegano che cosa accadrà. Sconto del 20% dell'acconto IRPEF anche per i lavoratori dipendenti che compilano il 730 per la denuncia dei redditi diversi da stipendi e pensioni, mentre a chi ha già versato gli anticipi fiscali senza il bonus spetterà un credito d'imposta. Insomma, queste alcune delle misure che tra l'altro erano già state anticipate sabato dal Sole 24 Ore con questo schema del decreto legge sugli acconti che è inviato al Quirinale, attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene però anticipato dal Sole 24 Ore in più nei dettagli con tutte le coordinate, con tutte le scadenze, con tutto quello che può servire insomma per capire e orientarsi per quel che riguarda i contribuenti. E dunque ve lo segnalo, molto interessante, mentre come detto il tema del nostro sondaggio trova spazio sui giornali. Il Giornale, Libero ne parlano, ma ieri ne parlava anche il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, insomma sta allo studio in un emendamento alla finanziaria. Che cosa? Libero la mette così: Tremonti si gioca il gratta e vinci contro l'evasione. Altro che guardia di finanza, l'evasione fiscale si combatterà col gratta e vinci, una trovata che può sembrare bizzarra. Tra l'altro c'è già un deputato del PDL, Giorgio Iannone, che sta ragionando sulla questione e ora vuole portare la proposta in finanziaria. Funziona così: si prende il cappuccino oppure si prende qualsiasi cosa in un negozio, si paga e si ottiene in cambio un gratta e vinci. Serve per incentivare i clienti a uscire dal bar o dal negozio chiedendo lo scontrino, perché se c'è un gratta e vinci è chiaro che così si è più incentivati a chiederlo e a contrastare l'evasione fiscale. Questo è il nostro tema. Pensate che sia una misura efficace oppure pensate che sia così un palliativo, una cosa che non serve? Votate su radio24.it, poi alle 8.30 ne parleremo. Come parleremo alle 8.15 in Soldi e Dintorni con la nostra Deborah Rosciani. Di che cosa? Beh, del digitale terrestre. Ieri quasi tutto il Lazio, a parte Viterbo, è passato al digitale terrestre. Roma diventa la prima grande capitale europea tutta così. E, per il Messaggero non è andata benissimo. Il titolo in prima pagina è: caos digitale a Roma, televisori al buio, assalto ai call center. A pagina 2, Roma passa al digitale nel caos, TV buie, assalto ai call center. A dire la verità, il ministero dice un'operazione record. Ci sono ancora tutte le istruzioni sul Messaggero, ma poi ce le darà anche Deborah Rosciani alle 8.15 e si scopre sia dal Messaggero ma anche dal Sole 24 Ore. Gianni Rusconi a pagina 24 ci spiega che, come abbiamo sentito in GR24, insomma, tra chi è rimasto al buio c'è anche Palazzo Chigi. La sede del governo resta senza TV nel passaggio ai canali digitali. Ieri alle 10 lo switch off e fino a tarda sera a Palazzo Chigi non si vedeva la TV. Chissà se hanno chiamato un antennista nel frattempo. L'ultima segnalazione dai giornali, forse ve la ricorderete, era la vicenda di una dipendente dei supermercati Esselunga che a Milano aveva denunciato un anno e mezzo fa umiliazioni, mobbing, un qualcosa di incredibile. Diceva: ho chiesto per un'ora e mezza il cambio alla cassa, non me l'hanno dato e ho subito una delle peggiori umiliazioni, bagnarmi davanti a tutti come accade a un neonato. Ebbene, oggi sui vari giornali, lo leggo dal Corriere della Sera, la cassiera e il mobbing inventato. Questo almeno avrebbe stabilito il tribunale. Bagno vietato e botte, il giudice non le crede e archivia il caso che mobilitò tutti i sindacati. Le problematiche che la vittima ha evidenziato, ha scritto il giudice, appaiono legate ai disturbi psichici e al suo stato di sofferenza psicologica, recita il dispositivo. Per quel che riguarda poi le lesioni subite nello spogliatoio, l'autore del fatto non è stato identificato e va accolta dunque la richiesta di archiviazione. Dunque un caso che io ricordo molto bene, ci furono mobilitazioni dei sindacati, insomma la vicenda almeno giudiziariamente si conclude così: sarebbe stato tutto inventato, comunque senza riscontri. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani. Ciao, buongiorno. Alessandro, buongiorno a tutti quanti. Parlando di digitale, come abbiamo detto, la domanda è: sarà arrivato l'antennista a Palazzo Chigi? Chissà, forse è ancora al buio la situazione. No, credo di no, ma per tutto il giorno ieri è rimasta al buio. Esatto. Palazzo Chigi. Evidentemente dopo hanno comprato il sintonizzatore, ma non hanno fatto, come dire, tutta la procedura per fare la ricerca dei canali delle TV vecchie, non lo so. Probabilmente c'era anche quel problema là. È un po' strano, dato l'inquilino, che non si fossero resi conto di questo problema, però questo. Diciamo che tutta l'operazione dello switch off all digital di Roma, termine inglese che adesso tradurremo naturalmente per i nostri ascoltatori, ha comportato molti problemi. Noi questa mattina ci eravamo proposti di parlarne per fare un po' il punto della situazione, per ricordare la portata della trasformazione in atto in tutto il nostro paese, la conversione al digitale terrestre, ricordare i prossimi step di conversione digitale fino alla scadenza del 2012, valutare un po' il percorso fatto fino ad oggi, e invece dobbiamo proprio concentrarci su quello che è successo ieri a Roma, perché insomma, da quello che raccontano anche i giornali, Alessandro prima ha fatto una accurata rassegna stampa anche su questo argomento, Roma è stata veramente nel caos ieri, eppure l'informazione che passa è che Roma sia diventata la prima grande capitale europea ad avere il solo segnale digitale terrestre per la ricezione della TV. E allora cerchiamo di capirne qualcosa di più con un esperto che è anche un po' polemico su questa questione, un po' arrabbiato, un collega, Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia Didei.it, esperto di audio video ed elettronica di consumo. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, prima informazione sbagliata. Tanto per cominciare, non è Roma la prima grande capitale europea ad aver compiuto questa rivoluzione, questa trasformazione. A meno che Berlino non sia una piccola capitale, visto che Berlino è diventata all digital nell'agosto del 2003, quindi direi 6 anni fa. E quindi sicuramente mi sembra che sia stata enfatizzata molto. Sicuramente un cambiamento epocale per moltissime persone. Una grande area metropolitana. Una grande area metropolitana, però insomma ho sentito più politici e amministratori locali e funzionari della RAI incensarsi per questo grande passaggio della prima capitale europea, e magari avrebbero potuto spendere qualche parola in più invece per indicare meglio come fare il passaggio e soprattutto per anticiparlo un po' nel tempo, visto che questo passaggio oramai era già arcinoto, stranoto da molto tempo, da molti anni. Ecco, però ricordo per esempio che molti anni fa, 3-4 anni fa, c'era stata addirittura la campagna per vendere i decoder addirittura con 150 euro di contributo, eccetera eccetera. È tanto che si parla di questi temi, però voglio dire, non ho visto fino a un paio di mesi fa, non ho visto neanche un volantino, un flyer né del Ministero né di DGTV che spiegasse bene come fare, cosa fare. Appare che la Regione Lazio sia intenzionata ad ovviare ai disagi, stia cominciando a distribuire 1.300.000 copie gratuite della guida pratica al digitale terrestre. Sicuramente farlo adesso è un po' tardivo, la Regione Lazio ultimamente ha avuto anche altri problemi da affrontare, ma a parte questo speriamo che almeno tutto ciò serva a qualcosa. C'è anche una fetta di popolazione, Gianfranco, quella anziana soprattutto, ma voglio dire, capiterebbe anche a me, dato il mio approccio con la tecnologia, di avere qualche difficoltà magari a capire bene tecnologicamente quello che devo fare, a meno che non abbia un buon assistente accanto. C'è la popolazione anziana che forse non è bene in grado di capire che cosa deve fare, che probabilmente in casa ha un vecchio televisore, quindi o deve comprare qualcosa di nuovo oppure farsi aiutare da qualcuno. Certe aree sociali sono un po' più facili, però un po' più difficili da raggiungere, non trovi? Questo assolutamente sì, e devo dire che è stata persa una grande occasione, perché c'era un grande mezzo di divulgazione che è la televisione stessa. Invece di sentire servizi come ho sentito che semplicisticamente dicevano basta acquistare un decoder e collegarlo, piuttosto che basta fare la nuova sintonizzazione dei canali, bastava forse farlo vedere, cioè un mezzo che è audiovisivo, che è molto diretto, che colpisce tutti, bastava far vedere questa presa va in questo buco, quest'altra in quest'altro, e quindi molto semplicemente far capire che andava collegato il cavo d'antenna, il cavo SCART, come, e anche magari far vedere un paio di esempi di risintonizzazione sui menu. Quindi questo stranamente, incredibilmente a mio avviso, sarà un funzionalista, ma incredibilmente non è mai stato fatto vedere, si è soltanto parlato a livello generale. Forse, mi dicono gli esperti, spiegazioni di questo tipo non sono compatibili con i tempi televisivi. Questa volta forse uno strappo alla regola si poteva fare. Le 60.000 telefonate call center che hanno raggiunto ieri appunto Roma, quali interrogativi prevalenti avevano, Gianfranco? Fondamentalmente lo spegnimento delle frequenze analogiche comporta in realtà la riaccensione delle stesse frequenze in digitale, quindi lo spostamento di una serie di canali da una frequenza all'altra o l'aggiunta di una serie di canali in frequenze dove prima c'era soltanto l'analogico, quindi è necessario risintonizzare il ricevitore per poter vedere questi nuovi canali. Quindi banalmente magari una telefonata al call center si risolveva in questa maniera, indicando all'utente come risintonizzare. Probabilmente sì. C'è da dire un'altra cosa, l'area di Roma è caratterizzata da una prevalenza assoluta di impianti d'antenna autonomi, cioè non c'è l'usanza di avere gli impianti d'antenna condominiali. Sì, questo da un certo punto di vista è un gran vantaggio, perché qualche impianto condominiale dà dei problemi nella ricezione e deve essere, come dire, rivisto dall'antennista. Però è anche vero che alcuni impianti autonomi, se sono molto datati, soprattutto se sono stati fatti con dei cavi molto vecchi, potrebbero avere dei problemi di ricezione che richiedono un intervento importante, cioè la sostituzione intera del cavo. Quindi può essere che in questi giorni ci siano molte famiglie, e tra l'altro neanche che possano consorziarsi a livello di condominio, ma a macchia di leopardo qua e là, che possano restare senza segnale televisivo fino a un intervento di un antennista, e questo può essere una quota parte di quei casi che hanno chiamato il call center e che non hanno certo risolto con la risintonizzazione. Allora, ammettendo, Gianfranco, che la lezione di Roma possa rappresentare naturalmente un utile punto di riferimento per anche evitare gli stessi problemi che potranno verificarsi poi nelle aree che dovranno progressivamente convertirsi, ecco, che cosa diciamo per esempio agli abitanti della Campania che dovranno affrontare questa rivoluzione nei primi 15 giorni di dicembre? Di armarsi di santa pazienza, perché il loro problema andrà a sommarsi al famoso rush finale degli acquisti natalizi, quindi anche in quella fase dell'anno in cui c'è minor attenzione da parte anche di tutto il canale distributivo, se vogliamo. Quindi se oggi riuscire ad avere una spiegazione da un commesso di un negozio è un'operazione possibile ma non facilissima, immagino che a ridosso delle scadenze natalizie sia assolutamente un incubo. Quindi da questo punto di vista, se possibile, anticipare il problema. Anticipare però con una cautela molto importante: non far intervenire l'antennista fino a switch off avvenuto, perché in realtà quando vengono spente frequenze analogiche, come dicevamo, alcuni canali vengono cambiati di posizione, c'è un riassetto totale delle frequenze e quindi si rischia di fare l'intervento due volte se si vuole anticipare troppo. Quindi, come dire, meglio stare qualche ora senza televisore possibilmente, assolutamente, piuttosto sì, che chiamare l'antennista, che è la cosa, fare una spesa è la cosa migliore, sperare di vedere tutto e poi risolvere i problemi nei giorni successivi. Nel 2010 poi tutta la rivoluzione, ricordo, riguarderà il Piemonte orientale, la Lombardia. Gianfranco, tra l'altro, in tutto questo naturalmente anche l'aspetto economico, visto che siamo a soldi e dintorni, non è trascurabile. Mediamente, magari facendo un po' di riferimento alla platea di Roma, quanto le famiglie hanno dovuto spendere per ricevere il segnale correttamente, alla luce anche della distribuzione abbastanza vecchia degli apparecchi televisivi che c'è ancora nel nostro paese? Ma è molto semplice, un ricevitore per ogni televisore, come minimo, se proprio non si è andato invece a cambiare il televisore, allora lì la spesa aumenta. Un ricevitore zapper, quindi quelli che permettono di vedere i canali digitali e non quelli a pagamento, costa intorno ai 30 euro, 35 euro, e il conto si fa semplicemente basandosi sul numero di televisori che si hanno in casa. Un'altra osservazione importante: è stato sottolineato molte volte da tutti le persone del consorzio di GTV, dai rappresentanti della RAI, che è preferibile acquistare un decoder, quelli col bollino blu, quindi quelli interattivi, MHP, cioè RAI consiglia di, ma non si capisce in realtà il motivo di questo consiglio, visto che la vera differenza tra i decoder zapper, quelli più economici, e quelli interattivi è semplicemente il fatto di poter vedere i canali a pagamento, quelli di Mediaset Premium e Dalia. Gianfranco, sì. Non capisco che interesse abbia Rai nel far vedere. Vabbè, apriremo un'altra parentesi. Ti ringrazio comunque anche per questa indicazione. Noi dobbiamo salutarci, ci ritorneremo su questo argomento, magari inseguendo un po' la popolazione campana per capire come si sta comportando in questa trasformazione. Anche perché c'è una notizia positiva in tutto questo. Dicela, che mi Se non si vede la TV, si ascolta la radio. Ma sei un grande, tu. Salva Danaio, dai, alle 12. Allora, la disdetta dei contratti, è presente quando vuoi venire via da un operatore per passare ad un altro? Ho letto ieri sul Sole, gente sul Sole, foto di gente che si strappava e i capelli, mi occupo proprio di quel problema. Come si fa a chiudere un rapporto con una società, visto che ci inseguono con le bollette anche sullo per zerbino, sempre. Va bene. Allora, lo scontrino gratta e vinci allo studio, si va a prendere un cappuccino e ti daranno lo scontrino con un gratta e vinci con Deborah che tossisce in onda. Questo è allo studio, che ne pensate? È un modo per incentivare a prendere lo scontrino e combattere l'evasione fiscale. Vi sembra uno strumento valido? Votate su radio24.it, chiamateci all'800 24 00 24. Le notizie in primo piano sono queste: Obama è in Cina, dove ha detto Pechino riannodi il dialogo con i rappresentanti del Dalai Lama, mentre il presidente cinese Hu Jintao, parlando di economia, ha detto bisogna respingere il protezionismo in ogni sua manifestazione. Del viaggio di Obama parlerà Oscar Giannino alle 9, ve lo ricordo. A Roma invece seconda giornata di lavori al vertice FAO contro la fame nel mondo, un summit senza anima. Ieri grandi dichiarazioni di principio, ma neppure un centesimo stanziato per salvare i bambini che muoiono di fame nei paesi in via di sviluppo. E infine la politica in Italia. Il presidente della Camera Fini dice le riforme vanno fatte a maggioranza, e sul processo breve il PD attacca con il segretario Bersani: no alle misure salva premier. La replica del presidente dei senatori del PDL Gasparri: non accetteremo veti. E allora le 8:35 minuti, il sondaggio di oggi parla di evasione fiscale, possiamo dire così, di una qualcosa che allo studio pare in finanziaria. Sentiamo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Funzionerebbe più o meno così: si va in un bar, si prende un cappuccino, oppure si va in un negozio qualsiasi, si consuma una prestazione, si paga e si ottiene con lo scontrino fiscale, con la ricevuta fiscale, un gratta e vinci, una lotteria, un qualcosa che ci permette di vincere qualcosa. Perché si dovrebbe fare questo? Perché uno così è incentivato a chiedere questo benedetto scontrino fiscale, e così si può contrastare l'evasione fiscale. È allo studio, forse verrà messo in finanziaria, un'idea un po' tremontiana e un po' cinese, la definisce oggi il Foglio, perché in Cina c'è già. E io voglio salutare, tra l'altro, partire da lui, da Vincenzo Bacarella. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È un giovane imprenditore, ieri il Corriere l'ha definito un giovane precario, ma lei ha detto no, io non sono precario, io ho fondato una società che si occupa del mondo dei new media. Ha vinto un concorso lanciato dal Collegio Carlo Alberto di Torino, un'idea per l'economia. L'idea è questa, cioè funziona così come l'ho detta Bacarella, lei l'avrebbe studiata così? Esattamente, è un metodo di contrasto all'evasione fiscale dal basso. Noi potremmo mettere una guardia di finanza davanti a ogni bar, però risulterebbe troppo costoso. Dobbiamo trovare dei metodi per far emergere la base imponibile in maniera semplice e spontanea. Quindi associamo l'emissione di scontrini e fatture a una lotteria permanente tipo Win for Life. Non so la lotteria, se è famosissima, esatto. Mezza Italia impazzita se non di più per questa Win for Life. Quindi, visto che tutti siamo propensi al gioco, io no, ma insomma gli italiani sì, uno così dice, beh, io lo scontrino lo chiedo, perché se rischio di vincere qualcosa, insomma, sono incentivato a chiederlo. Esatto, facciamo leva su un vizio italiano per risolvere un problema grandissimo, che è quello dell'evasione fiscale. Quindi immaginiamo il classico scenario: andiamo a comprare per esempio un profumo, spendiamo 50 euro, chiediamo lo scontrino e ci ritroviamo in fondo allo scontrino un codice. Questo codice serve a partecipare a una sorta di lotteria permanente tipo Win for Life, quindi dopo un'ora potrei vincere una cifra che non è una cifra fissa, ma un moltiplicatore della cifra spesa. Quindi per esempio, se allo scontrino è associato un 3x, io concorro per vincere 50 euro per 3. Perfetto. Quindi tutto questo serve a fare leva, per esempio, a richiedere scontrini. Sì, sì, questo varrebbe anche se un idraulico mi viene a casa, mi fa una prestazione e mi dice guardi è 150 euro se vuole la ricevuta, se no facciamo 100 e via. Esattamente, in questo caso io richiederò la fattura, mi presenterò presso una ricevitoria SISAL, richiederò in questo caso l'emissione di un biglietto di questa lotteria e con le stesse modalità potrò partecipare. Quindi... interessante, diciamo, questa proposta. Tra l'altro la stanno ascoltando, io voglio salutare il professor Victor Ukmar, che saluto. Buongiorno, buongiorno professor. A lei. Fiscalista molto noto, presiede il centro di ricerche tributarie dell'impresa La Bocconi di Milano. E anche il professor Pietro Garibaldi, economista. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Che insegna a Torino, è il direttore del collegio Carlo Alberto, di cui insomma questo premio è stato vinto da Baccarella. Professor Ukmar, leggo oggi su Libero che l'onorevole Giorgio Iannone del PDL sta preparando il tutto per metterla in finanziaria, sì, questa proposta. Ecco, a lei, bene. è un po' scettico. Ma e perché? Sono piuttosto scettico, però tutto serve per indurre gli italiani all'attenzione al dovere fiscale. E sa, l'evasione è antica come il mestiere della prostituzione. Io mi sto divertendo a fare un'indagine storica e vedevo che presso i Sumeri addirittura c'era la decapitazione, quindi meglio un biglietto di lotteria che la decapitazione. Sti Sumeri, accidenti, la prendevano. È un fenomeno diffuso in tutto il mondo questo. Noi ci illudevamo, dicevamo guarda come sono corretti gli americani, guarda come sono corretti i tedeschi, e poi i fatti dell'UBS o i fatti dell'utilizzo dei paradisi fiscali così diffuso fra gli americani. È una lotta continua, dovuta in Italia, poi particolarmente diffusa. Io mi domando fra di noi che ci parliamo, che ci sentiamo, chi non è evasore, chi è che non ha accettato di pagare l'idraulico o il carrozziere o il dentista, l'applicazione dell'IVA. Però professore, in Cina funziona, pare che la Cina... Ma anche ha funzionato in passato anche in Brasile questo sistema. Io ho detto tutto fa brodo, quindi non certo c'è un'opposizione. Non mi illudo che questo sia determinante, purtroppo è nell'abitudine di noi italiani questa evasione, sì, giustificata per ragioni storiche, per ragioni nazionalistiche, per ragioni di eccessiva pressione, per ragioni di sperequazione. Noi diciamo che il livello di pressione in Italia più o meno è come quello degli altri stati dell'Europa, sembra sul 42-43%, ma questa è una statistica altrilussa. Meno male che gli Sumeri si sono estinti intanto, perché insomma altrimenti rischieremmo teste mozzate in Italia. Professor Garibaldi, lei invece, ma non solo perché presiede il collegio per il quale, del cui premio ha vinto Baccarella, no, questo, però lei ha detto, ecco un sistema che costa poco e può, certo non è la panacea di tutti i mali, però è un modo per recuperare soldi. Avete fatto anche delle stime, quanto si potrebbe recuperare spendendo quanto? Ma quindi sono di fondo d'accordo sulla cosa più importante della decisione che prendemmo di premiare il dottor Baccarella, fu quella di concentrare l'attenzione su meccanismi che partono dal basso di contrasto all'evasione, che ci sia compartecipazione da parte del contribuente invece che solo imposizione di un controllo. Questo è il principio forse più importante, che è fondamentale diffondere. Ma prendendola poi molto seriamente, le stime di costo, dato che le infrastrutture nel nostro paese esistono, infrastrutture informatiche, con pochine decine di milioni di euro si potrebbe diffondere un sistema informatico, quindi con il software necessario, e riuscire a recuperare il 3% dell'evasione fiscale, quindi appunto una goccia nel mare dell'evasione, vuol dire 3-4 miliardi di euro. Beh, però è una cosa notevole in quel senso, perché è verissimo quello che dice il professor Ukmar, che l'evasione fiscale è un mestiere antico come quello della prostituzione, ma le stime internazionali dimensione dell'economia sommersa nel nostro paese sono tra le più elevate dei paesi OCSE, quindi è vero che è un mestiere antico, ma da qualche parte si pratica deve più che in altri posti, e il nostro paese in qualche modo è tra i paesi in cui vi è maggior evasione fiscale. Purtroppo questo sì, tra l'altro devo dire che per il momento su Radio24.it il 63% di voi che ha votato dice sì, potrebbe essere uno strumento per contrastare l'evasione fiscale, poi è uno strumento dal basso, perché appunto si sensibilizza sensibilizza chi entra in un negozio, chi chiede una prestazione, a chiedere in cambio la ricevuta perché sa che può vincere qualcosa. Professor Ukmar, io peraltro prima di salutarla le sottopongo, vede che gli italiani già si ingegnano. Un ascoltatore ci ha scritto, sapete che c'è, pur di non dare lo scontrino, quello che non lo vorrà dare, vi regalerà un gratta e vinci dicendo guarda prenditi questo, vai a vincere ma lo scontrino non te lo do. Ce l'abbiamo nel DNA, io non lo so noi italiani. Quando diciamo non abbiamo fatto ancora gli italiani, ma la base è anche il senso della collettività e quindi anche dell'obbligo di ciascuno di contribuire, però bisogna contribuire in modo giusto e bisognerebbe anche, non dico applicare le sanzioni che poco servono, come hanno fatto i sumeri, ma però creare dei mezzi, utilizzare dei mezzi, si parlava della informatica, oggi la SOGEI ha la possibilità di raccogliere un'infinità di elementi, poi basta leggere i quotidiani o i rotocalchi e sono ricchi di notizie su su quanti evadono, in quanta misura evadono le imposte. E bisogna creare un senso della collettività, ma finché ci sono le sperequazioni, finché ci sono i condoni, noi primeggiamo anche nei condoni e quindi sì, si fanno minacce, ma poi si dice, ma poi darà un condono e sistema tutto. Quindi dice, va bene il gratta e vinci, ma sì, poi il condono, forse, ecco. Ma gratta e vinci serve intanto per creare, che se ne parli dell'evasione. Vabbè, che già è un tema. Io la ringrazio per essere stato con noi, professor Ukmar. Tra l'altro rimane con noi Baccarella, professor Garibaldi. Voglio salutare anche Dino Pesolo del Sole 24 Ore che ci ha aggiunto. Dino, buongiorno. Buongiorno. Che insomma si occupa di questi temi, non solo, è sempre sguardo molto attento alla finanziaria. Vediamo se già il primo ascoltatore, Michele da Brescia, ci sa dire se è a favore o contro. Buongiorno. Che dice Michele? Buongiorno. No, sono decisamente bravi. Contrario? Sì, contrario, assolutamente. È perché così facciamo la solito pasticcio all'italiana. E che pasticcio? Io ti faccio lo scontrino, cioè tu mi fai lo scontrino, io ti do un gratta e vinci. Ma invece, non, secondo me, bisognerebbe più incentivare la legalità da parte di chi gestisce determinati. Ho capito, ma questo sarebbe questo sì, nel mondo di utopia, insomma, però sarebbe un modo per dire così uno lo scontrino lo chiede più spesso, no? No, ma invece bisogna chiederlo né più né meno. Ma questo abbassando sì. A monte, magari abbassando le tasse, detassando determinate categorie. Michele, bisogna essere perfetti, questo lo sappiamo. Bisogna chiedere a tutti lo scontrino, nessuno dice di no, bisogna pagare tutte le tasse, nessuno dice di no, però insomma siamo uomini di mondo, no Michele? Lei lo sa, l'evasione non me la invento io in Italia, quindi lei comunque dice bisognerebbe no agire così, più a dire no, tutti devono entrare in un negozio sapendo che il dovere di cittadino è quello, va bene, lo sappiamo tutti, il dovere civico, lo ribadisco per la terza volta, è quello. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, precisato che chi l'ha ipotizzata, l'ha inventata, non pensa che questa sia la soluzione per eliminare, sradicare l'evasione fiscale in Italia. È un modo per recuperare un po' di soldi. Lo scontrino fiscale è legato a una lotteria, un gratta e vinci. Io vado, pago e ottengo un gratta e vinci. Legato allo scontrino fiscale, in modo che così sono incentivato a chiederlo di più, questo benedetto scontrino. Dino Pesole, che sull'evasione fiscale ha scritto qualche tempo fa Il Patto, parlando anche delle ipotesi di come si può ridurre questo problema grave che c'è in Italia. Dino, questa dello scontrino non l'avevi prevista o è una cosa che insomma... No, per la verità nelle ricerche che hanno propiziato poi quel libro, mi ero anche imbattuto in questa proposta. E che ne pensi? Anche in linea con quello che abbiamo proposto nel libro. Ma guarda, io penso che obiettivamente sono d'accordo anche col professor Ukmar, ogni ipotesi che emerga per recuperare gettito va bene, tenendo conto però di due cose fondamentalmente, delle grandezze che abbiamo davanti, perché noi stiamo parlando di un paese nostro che ha livelli di evasione altissimi, tra i più alti livelli al mondo. Noi siamo su un'evasione fiscale stimata intorno ai 100-120 miliardi l'anno, di questo stiamo parlando. E l'altro elemento riguarda il fatto che questa misura interverrebbe in qualche modo a correggere un'anomalia, perché non si vede perché dovremmo essere noi a chiedere lo scontrino scontrino, quando lo scontrino è un obbligo, è come ci dice l'ascoltatore. L'ascoltatore dice: ma no, ma dovrebbe essere tutto tutto così codificato che lo scontrino ci vuole. Io forse ho fatto quello. Vabbè, insomma, però bisogna anche pensare che questo è il mondo un po' utopico, no, Dino? Poi non succede che lo scontrino si chiede, cioè è inutile negarlo. Questo però è un problema di cultura, di civiltà fiscale, questo discorso sarebbe molto lungo, però insomma, obiettivamente, se questa misura servisse in qualche modo a far emergere maggior gettito e soprattutto a creare un maggiore clima di civiltà fiscale, potrebbe essere anche applicata. Tra l'altro, professor Garibaldi, lei ha ribadito, sarebbe una stima di 3-4 miliardi di euro l'anno. Quel 3% è calcolato su un'ipotesi di 100 miliardi di evasione, come ci riferiva Dino Pesole, no? Mi sembra di aver capito, sì, così 100-120, anche meno. Ovviamente è una stima, ma l'idea che l'analisi costi-benefici, è difficile dire che un'iniziativa di questo tipo ha dei benefici netti negativi. È ovvio che è una goccia di mare, ed è verissimo quello che dice l'ascoltatore, che il vero modo nel lungo periodo sarebbe anche ridurre la pressione fiscale. Ovviamente è evidente che l'Italia ha una pressione fiscale troppo elevata, ma è un approccio pragmatico che ha un beneficio netto positivo e in qualche modo aiuterebbe gli italiani a concentrarsi sugli incentivi a livello individuale di partecipare a quello che è un problema nazionale, perché quello è. Sì, vediamo se Doriano da Pistoia, che mi segnalano essere un commerciante, è vero Doriano? Sì, buongiorno. Buongiorno, lei che ne pensa? Io sono stato artigiano per conto terzi, ho 61 anni e mi sono fatto commerciante. Io è una vita che combatto contro l'evasione fiscale, io sono veramente d'accordo, naturalmente tutti i discorsi di principio, tutto quello che si vuole, però intanto questo è un passo avanti, diciamo, e poi se non ci rimettiamo nulla, così, ecco, a me mi meraviglio di tanti clienti che mi fanno, ma no, non è, non lo lascia fare, tanto mi rubano, ma i dipendenti stessi proprio mi al limite voi fate i vostri interessi, intanto li fate pagare tasse anche a me, e poi a parte io li faccio lo stesso, ma li sbuttano via, poi lo faccio, ecco. Vabbè, no, nella sua parlata abbiamo capito, comunque lei è a favore, si iscrive con il 63%, per ora ripeto 62% devo dire, aggiornando i dati, per ora a favore. Vorrei però tornare per un attimo Vincenzo Baccarella, lei ha sentito insomma un po' anche chi è a favore, chi è un po' come il professor Huckmar a dire va bene tutto, però insomma non mi sembra questa la soluzione ideale. Lei ha studiato anche il meccanismo, ce l'ha spiegato, quanto costerebbe mettere in piedi il meccanismo, voglio dire 3-4 miliardi di euro è quello che secondo il professor Garibaldi si potrebbe recuperare, costerebbe, ci sarà un sistema informativo immagino da mettere a punto, no, per questa cosa? Certamente costerebbe relativamente poco, perché in Italia diciamo le infrastrutture già ci sono per queste cose, quindi il sistema informativo si potrebbe appoggiare sull'attuale rete Bancomat, quindi i POS sono presenti in tutti gli esercizi commerciali, nel momento in cui lo scontrino viene emesso attraverso la rete Bancomat, è un sistema centralizzato, si potrebbe emettere il diciamo questo famoso. Quindi il costo è poco perché c'è già la struttura base. Esatto. Io, Dino Pesole, vorrei concludere con te. Insomma, c'è la finanziaria. Questo è un possibile emendamento che entra al maxi emendamento alla finanziaria. Ripeto, l'onorevole Giorgio Iannone del PDL, secondo Libero, starebbe già studiando i dettagli su come inserirlo. Farà strada? Farà un percorso, secondo te, questa ipotesi? Approderà in finanziaria? È possibile, anche se, come abbiamo visto nel passaggio preliminare al Senato, poi in realtà è passato molto poco delle proposte che erano state avanzate dalla maggioranza, perché il governo, insomma, in qualche modo ha detto le cose più importanti le faremo alla Camera, quindi è probabile che se ne parli. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il ministro Tremonti, perché poi è lui che dovrà dare il via libera. Vabbè, chiaro. Però insomma potrebbe essere un primo segnale. Beh, insomma, il Foglio dice un'idea un po' cinese, perché lì c'è, è un po' tremontiana, quindi forse almeno ne dà la paternità, sì. Il Foglio un po' a Tremonti. Io vi ringrazio davvero tutti per essere intervenuti, Pietro Garibaldi, professor Vittor Huckmar, Vincenzo Baccarella, Dino Pesole, di cui voglio ricordare il libro non è nuovo, è di un anno fa il patto, ma è sempre valido, perché ai noi l'evasione fiscale valeva un anno fa e varrà anche tra un anno. Ci fermiamo qui, grazie a Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Votate su radio24.it che ne pensate di questo scontrino fiscale gratta e vinci, e noi ci sentiamo domattina 7:30.